America 24 di Mario Platero. Buongiorno da New York, Mario Platero, benvenuti ad America 24, cominciamo con un'apertura sulla borsa. Intanto vi dico che la tempesta è finita, la neve è ancora per strada, ma il sole è tornato, le scuole sono aperte, gli aeroporti sono tornati a funzionare quasi normalmente. Ma veniamo alla borsa, la borsa ha funzionato bene ieri, un aumento dell'1,5% per l'indice Dow Jones, perché si è accolto con grande sollievo il pacchetto di aiuti che l'Europa ha messo a punto per la Grecia, con due preoccupazioni. La prima è che questo pacchetto non sia necessariamente sufficiente a calmare i mercati. Normalmente i mercati, quando poi hanno risolto un problema, cominciano a rivolgere l'attenzione sugli altri potenziali problemi, e dunque sul Portogallo, sulla Spagna, e c'è chi dice naturalmente anche sull'Italia. E dunque questa situazione resta di fondo. Il mercato oggi sta per aprire, aprirà fra un paio d'ore. La situazione in questo momento è relativamente ottimistica. Chi soffre in tutta questa situazione? Beh, l'euro, che è sceso a 1,36 contro il dollaro, e dunque continua a indebolirsi un pochino. Su altri fronti abbiamo avuto parecchie notizie ieri di un certo interesse. Sul fronte del lavoro c'è stato un progetto bipartisan, finalmente il primo progetto bipartisan del democratico Max Baucus e di Chuck Grassley, il repubblicano, due senatori che hanno presentato un progetto di legge per il mercato del lavoro. L'idea è di mettere insieme un pacchetto di 85 miliardi di dollari in modo da poter rilanciare l'occupazione. L'amministrazione è molto ottimista sul fronte del lavoro, arriva addirittura a dire che nei prossimi mesi si aggiungeranno circa 90.000 posti di lavoro al mese. Situazione tesa sull'Iran, l'America sta tenendo sotto osservazione quello che succede a Teheran, gli iraniani continuano a esercitare il pugno di ferro sull'opposizione, e l'attenzione di tutti è sulla dimostrazione organizzata per il 13. Ve lo ricordo, il vero banco di prova sarà appunto il 13 di febbraio. Ma su tutto, alla fine, in una giornata un po' caotica, ha dominato la notizia sul presidente Bill Clinton, o meglio ex presidente, come qualche nostro ascoltatore ci ha fatto notare. In America in realtà i presidenti poi restano presidenti a vita. È stato ricoverato d'urgenza nel pomeriggio di ieri al Columbia Presbyterian Hospital, è stato sottoposto immediatamente a un'operazione chirurgica e gli sono stati introdotti due stent per riaprirle, una delle arterie coronarie. Ricordiamolo, nel 2004 il presidente aveva già avuto un quadruplo bypass dopo un infarto. Ci sono stati momenti di tensione, devo dire sentita. Bill Clinton è un uomo molto amato, le reti televisive hanno interrotto le trasmissioni, hanno cominciato a seguire questo sviluppo inaspettato in diretta, si è saputo che la figlia era con lui, era al suo fianco durante tutta l'operazione. Ha passato la notte per il momento molto bene, e dunque presto lo rivedremo, così ci ha detto il suo portavoce, abbiamo parlato con lui ieri pomeriggio, presto lo ritroveremo sia sul fronte degli aiuti per Haiti che su quello della sua fondazione per aiutare i più poveri e gli indigenti. Fashion Week a New York è cominciata ieri, 65 eventi organizzati sotto tre grandi trendoni a Bryant Park, nel cuore della città, subito dietro la Public Library, 8 giorni di feste, sfilate, dialoghi, video, interviste, e purtroppo è cominciata ieri con una notizia tragica. Lo stilista britannico Alexander McQueen è stato trovato morto ieri mattina nella sua casa londinese. Si è capito quasi subito, non è stato confermato, che forse potrebbe trattarsi di un suicidio, e devo dire proprio ieri mattina mi trovavo sotto il tendone del Mercedes-Benz lì a Bryant Park quando è arrivata la notizia, e la reazione è stata naturalmente assolutamente sbalordita, perché lo avevano visto circa una decina di giorni prima, e perché proprio nel pomeriggio di ieri doveva esserci la sfilata delle sue collezioni. Alexander McQueen, ricordiamolo, un personaggio straordinario, è nato dal nulla, da una famiglia poverissima, è riuscito a creare delle novità assolute nel settore della moda e a diventare una star, un uomo di appena 40 anni. E dunque questa notizia ha colto di sorpresa tutti. Vi dicevo, a un certo punto è arrivata Anna Wintour, che è la direttrice di Vogue, la grande potenza della moda nel mondo, ed è rimasta ferma, era proprio a un passo da me, ha detto «I cannot believe it», non ci posso credere. Ecco, di Alexander McQueen, della moda a New York e dei riflessi di quello che succede nel settore moda americano per l'Italia, parliamo con Stefano Tonchi, direttore di T, il magazine del New York Times dedicato a moda e lifestyle. A lui chiediamo intanto di descriverci McQueen, chi era e perché poi questa tragica fine. È una delle persone che, fra l'altro, uno veramente dei geni della nostra generazione. Sembrava in qualche modo che Alexander si fosse un po' calmato, avesse abbandonato, diciamo, questi eccessi di droghe e di cocktail, di pillole che l'avevano portato molto vicino proprio a un tracollo sia fisico che psicologico. In più c'era stata la morte della persona a lui più vicina, la Izzy, questa incredibile donna della società inglese che era stata una sua grande compagna, e Izzy era il nome, diciamo, in cui nel mondo della moda tutti la chiamavano, ma Isabella Blow era proprio la persona, una compagna di strada in qualche modo. Lui che tipo di design faceva? Quando si pensa al lavoro di McQueen, è uno che viene proprio dalla gavetta. I primi lavori penso fossero come proprio sarto a Savile Row, nel senso ha imparato nei retrobottega della grande sartoria maschile di Savile Row. Viene da una famiglia molto povera, la madre penso avesse un negozio di fiorai, e il padre diciamo era stato molto abusivo, insomma un sacco di storie abbastanza terribili, e poi da questo incredibile talento, questi sogni, ha fatto delle sfilate incredibili alla fine degli anni Ottanta per poi diventare parte del LVMH Group, del gruppo Louis Vuitton, e disegnare Givenchy e poi per passare al Gucci Group. Ma lei l'ultima volta che l'ha visto si sarebbe aspettato che potesse avere un tracollo come quello che ha avuto ieri? Direi di no, anche la nostra storia che abbiamo pubblicato più o meno quasi 6-7 mesi fa faceva il punto della situazione, di come sembrava si fosse riassestato, aveva un nuovo amore nella sua vita, aveva in qualche modo un equilibrio, poi la collezione maschile andava molto bene, la collezione femminile che è sempre stata, diciamo, questa specie di cosa incredibile, cioè l'ultima sfilata ha avuto un grandissimo successo di stampa. Due cose per finire: uno, atmosfera Bryant Park, la sfilata che doveva avvenire ieri pomeriggio di McQueen è stata cancellata, quindi uno shock su Bryant Park, e che atmosfera c'è fra i modaioli americani? Al di là di questo incidente, direi come tutto business. Il mondo, diciamo che l'atmosfera moda è molto sottotono, perché anche se i numeri di fine anno sono stati più positivi, siamo ancora, insomma, in una crisi che non è solo finanziaria, ma in qualche modo anche proprio quasi generazionale. Sicuramente i consumi stanno cambiando, il consumo del lusso sta cambiando, la democratizzazione del lusso è finita, stiamo entrando in una nuova era, non sappiamo esattamente quale sarà. New York è sempre una capitale incredibile, sì, è un posto dove succede di tutto e dove tutti hanno una possibilità. Ecco, in Italia? In Italia, c'è questa specie di servilismo all'interesse straniero, per cui tutti hanno detto, volete stare a Milano di meno, vi faccio la sfilata quando la volete. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Obama canta in coro alla Casa Bianca per i diritti civili con John Baez. Il presidente aveva organizzato un concerto della East Room l'altro giorno per la presentazione della colonna sonora del Movimento per i diritti civili. Ieri sera le televisioni hanno trasmesso il concerto. Canzoni romantiche che risalgono agli anni 60, canzoni che hanno scandito la lotta per i diritti civili. Al concerto hanno partecipato anche Natalie Cole, Jennifer Hudson, John Legend, Smokey Road, Seal. C'erano attori come Morgan Freeman, Robert De Niro che hanno letto dei brani celebri di discorsi della battaglia per i diritti civili. Possiamo lasciarci con un classico la canzone che poi ha cantato Obama con John Baez, We Shall Overcome. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.